non soffio ma sbocco nel palloncino. Stefane mi vengono a trovare, controllo dallo spioncino. Sul sedile posteriore guardo fuori dal finestrino. Fantasmi nel retrovisore faccio l'inchino. Fanculo a tutti, mondo visione, erba, cartina, filtro. Orgasmo all'organismo tipo la tipa col clito. E non so se l'hai capito, che sti occhi sono testimoni di merda che lascia ematomi e il mondo è già finito. Sta gente non sente come una troia se lo metti dentro, ma fa finta di capire, vale lo stesso esempio. Fra chi si veste di raso, chi si sfonda il naso, io non spacco un cazzo e sorrido di rado. Guarda quella, gliela sfonderei, eccetera. Lei, figlia di papaio, figlio di puttana, dimenticala. A valer di te non gliene fotte un cazzo. Non fare gesti con le mani che ti cade il braccio. Tipo che sta vita fa più schifo della merda che mi hai venduto. Io mi faccio il viaggio di un minuto, tu fatti un viaggio a fanculo. Zoccole, è finita in tragedia, Sofocle, tutte frottole, mi giro la testa a trottole. Frate, sono stupefacente nel senso che ne ho fatti così tante che adesso sembro un arghile. Mi accelera il battito tipo fibrillazioni. In un attimo vedo le stelle creare costellazioni. Passano i giorni, riempio fogli bianchi di rimpianti. Fogli multicolore restano sogni distanti. Ovvero miraggi, la merda la assaggi, beveraggi. Tristezza nei paraggi, non la fermi, narcotraffici. Disegno cerchi di fumo e ne calcolo i raggi. Shot su shot, shock su shock, tipo anafilati. Sta vita stringe emostatici, chiudo più di Rastafari. Fanculo l'amore fra solo troie e affari. Alla fine impari ad accettare le cose, anche se graffiano come spine di rose e resti tra i normali. Fra così canato di steroni e toffa che se vedo felicità avanti si trasforma in rimpianti. Magia, così sfigato queste donne che se chiamo le iene per truffa al posto della toffa viene Giulio Goglia. E quindi sogno soldi e vestiti Prada. È stato solo sogni perché soldi nada. Vorrei occhi a 360 a vedere solo il labiale, perché con le parole vita inganna, stacca spina dorsale. Inalare felicità dal setto nasale, passa poca distanza tra cosa è bene e cosa è male. Dio è cieco e sembra non saper razionare, è che è ingiusto ha sempre di più di quello che vale. E resti freddo in silenzio tipo sala operatoria. Cazzo fra, brutta storia, brutta storia. È il più forte quello che fa le regole, e se non ti sta bene fra ti rendono ancora più debole. Più debole. Cazzo vuoi, cazzo ridi, chi cazzo sei? Cazzo dici, cazzo vuoi, fra cazzi miei.